Marie, signor Marchisio, Luca, e te, dottore. Ehi, piangendo stai? Che facendo c'ha? Oh, piangendo sta. Che facendo c'ha? Ma Dio Maria, facendo c'ha? Cosa ne so tu? Boh. Alternata ciò? No, c'è tranquillo, è netto. Cosa hai fatto? Come ti ho detto io qualcosa? All'antenna? Oh no, un filo l'ho attaccato, dal baracchino alla ringhiera. Va a stazionare sempre due e due. Sì, sì. Ah, non è così che deve funzionare, no? Deve avere la massa, l'antenna proprio, attaccata proprio, l'antenna che faccia massa proprio, se no c'è sempre stazionario. Ah, fa una cosa, un giorno che sei lì, però che siamo vicini, vieni, ti prendi il caffè e me lo fai vedere tu come fare. Tanto io da casa porto il campo più lungo, così lo sistemo meglio, già ne ho capo di corrente, a buia. Ma ci vuole una staffa di quelle AL, ci vuole. Mi hai compreso? A Grozzi. Una di quelle staffe lì ci vogliono, per tenerla ferma e fargli fare massa. Allora, una staffa di quelle AL, dovrei cercare la persona che ho qualcosa qua. Che si usano nei tubi, si usano. Nei tubi? Quali tubi? Questi da d'antenna. Ci sono anche di quelli di coso, dei tubi innocenti, presenti ce li hai, che fanno aerei, fanno a croce. Ma questi sono più stretti, sono per tubi d'antenna. Non sono presente, vabbè, comunque là già, come si dice, già si fa e buonanotte. No, non ne ho di quelli lì, li avevo usati. E non ne ho di quelli lì. Ah, ma tanto la compro, mi spieghi poi com'è. Non c'è problema, AL, ma non sono quelli che si mettono nei muffli, no? No, sono staffe che si usano nei tubi, e sono a croce, sono, hai compreso? Presente ce l'hai il tubo messo fatto a croce, uno verticale e uno orizzontale. Sì, è betto. Ma hai compreso? Sto aspettando una risposta. Ma raga? E da te, non mi sentivi? No. Perché la cosa è, la staffa è di quella, vabbè là, se ci vediamo per il vostro video. E vabbè, comunque già posso agganciare la ringhiera, si raschia magari un po', e l'antenna la mettiamo meglio, perché sono in quell'angolo lì la posso mettere che non dà fastidio. Perché se la metto magari dove stende e poi mi rompo le scatole. Ce n'è il posto, mi dove la stendi. Aspetta, non dà fastidio. Se è attaccata al ferro mi va, al ferro di stendere lì. Tra un. Se c'hai due fili, metti due fili lì da stendere, no? E va in mezzo, va. Oppure nella punta. E se no già c'ho. Boh, qualcosa in garage c'è, mi sato. Però io la volevo mettere sul tetto, ma un casino, cioè non è un casino, è che magari fatti guai, a parte che ci vuole doppio capo, ormai questo capo qua l'ho anche tagliato, ma vabbè, per il momento la lascio così, poi magari aprirò qualche soldino, mi compro il capo, se lo metto giù, se la piazza sul tetto, la metto su un'antenna di televisione. A dare cosa, a fare TV e non ne fa. Non ne fa perché non c'ha radiali. Chi fa TV e sono i radiali, hai compreso? Ah, ho capito, vabbè. Allora prenderò quella, cioè metterò quella sul tetto. Sì, metticela sul tetto, tanto io sono fazzi nuda. Lo fazzi. Devi misurare quanti metri dal tetto a giù. Però devi mettere giusto, devi mettere il capo. Io ho un butto già che 30 metri mi pare. 30 metri. 30 metri di capo c'ho io. Capitina. Ci vuole una cosa fatta bene. E che devi ci bere. Ah, anche sulla finestra va benissimo, va, no, non dai fastidio a nessuno. Facciamo visto, perché magari poi quando ho quant'antenna, magari vedo qualche striscia e se la pigliano con me, capisco, male non sono io. Infatti, meglio lasciare anche io. Questa staffa qua che ti sto dicendo io, magari nella punta o dove in mezzo ai due capi, e a buia. Io prima che andi esci a dare una conine. Ma infatti, poi a casa c'ho la manto, come sai che sta con la manto la metto qua, non può trovare. Ma lascia così, lascia, vai. Ah, lascia così, poi quando buschi una staffa. Io le ho adoperate tutte, quelle che avevo preso le ho adoperate tutte. Non me ne manca da manco una, poi chissà che faccio, non andrà manco per panchini. Vabbè, tanto mi sta per fare due chiacchiere con voi, adesso vedi, ieri Marina ha parlato, arriva 9 a casa, arriva bene, la sento benissimo. E allora buia, dici io, tu vedi che arrivi in tutti i rughi, arrivi. No, ma d'estate magari non arriva lì a casa. D'estate arrivi a sentire la propagazione anche, sì, con quell'antenna lì, si è attaccata bene, come ti sto dicendo io. Ah, beh, certo. Ehi, a buia di travagliare. Io mi ero dicendo un rubinetto di goso, di serbatoio. Sto cercando delle serbatoie della benzina, del coso, delle, come si chiama, comunque stavo cercando il rubinetto, mi sei fasciato, non so come ti sei fatto a fasciarsi. Sì, addirittura. È in alluminio, è in alluminio, non so con cosa l'ha già stoppato e sei fasciato. Cazzo, vuol dire che ha pigliato un po' di Eva? Ah, no, deve essere che l'ho toccato con qualcosa nel magazzino e l'ho rotto. Ah, ecco, capito. Dai, andiamo a buttare sai. Forza con parossino nuovo. Infatti, li ho trovati in internet. 2,8 euro e 50. E lascia un ma chi? Poi si farà giù, sono a ribunti. Da cosa che si fa a motosserie, va tutto quanto. Chissà quanto ne vuoi. Vabbè, i prezzi, allora. Avventore, i negozi qua di sasso, di abbigliamento, i prezzi sono alti, la gente compra su internet perché la paga la metà e conviene, sì, aspetti una settimana, magari fino a tutti, ma così magari la metà, e se no te lo paghi 100, su internet lo paghi 50, 60. Cucù! Avanti! Wow. Avanti, scucù! Ok, ciao Luca, buonasera creatore. Cucù che parla. Ciao Bacchisi, buonasera, comunque ti ho rilanciato anche prima, non so se mi hai sentito. Avanti, Tore. Tore! Ehi, già sono qua. Ciao Bacchisi, buonasera. Mi state dicendo di comprarlo. Io ne ho trovati due in negozio, 8,50 euro. In internet. Precisi identici. Che rubinetto si salutò? Il rubinetto del serbatoio del coso, delle dice da di correnti, il bar motore attaccato a un momento come ci si chiama. Bisogna vedere, ma sai dove puoi trovare i rubinetti così per benzina, per serbatoio? Da Pintus, vicino alla piazzetta. Pintus. Faccio prima a farati a coso da andando a canica, faccio prima da coso da va. Vabbè, se mi hai compreso. Mariani sto dicendo. Sì, da Mariani. Faccio prima da Anchivi. Forse va prima la piazzetta in dipinto su. E che è sortito di Mariani, sta tranquillo. Ma è dove rimane? Allora, a sede che quel farabutto vende sacrosanti usate. Il napoletano, dopo il napoletano, c'è scritto autoricambi, no, ricambi Pintus. Ah, lì ho comprato i cuscinetti per il copre le ruote del carrello. L'ho comprato, e attaggio compresa va, infatti. Non ho capito, forse già ce li ha quello lì. Non ce l'ho quello, non ce l'ho nessuno, sto solito. Capito, è tutto. Avanti lu. Purtroppo i prezzi qua sono superiori. Solo che molta gente magari ha fretta se lo compra lo stesso. Faccio un esempio, ieri abbiamo comprato lì da, come si chiama, da MediaWorld, quelli, non so se li conoscete, casse piccoline e brutti, no? Che toccano, lì costava 40 euro, e invece su internet ce ne costa 30. Ma c'è il viaggio poi lui? No, no, senza spedita. Oh, sì. Allora va bene. Purtroppo i prezzi che ci sono qua e loro ci vogliono guadagnare. È chiaro, ci mettono il piede sul collo. È come se tu magari vendi frutta, la vendi a una cifra e il venditore se la vende a un'altra. E poi con la garanzia avanti ce la butti, invece lui il prezzo di cambio non ce lo butta. Lo tiene lì, alla prossima volta paghi doppio. Aspettate chi va a togliere la frutta a lui, da Edu costa 2 euro, da te ma chi la paga 1 euro, la compro da te, ovvio no. Beh, è chiaro. Che è così. Ehi, torre, senza motore, senza rubinetto, avanti. Ehi, certo. Non lo so come ti hai fasciato, boh. Certo, deve essere il raggiazzuffato, qualche cosa e non me ne sei capizzato. Ehi, vabbè, no, sarà così. Non lo bilio, vero biazzo? Negavo rubetto, negavo, ma così è pronto a pulizzare. Abbiamo smontato il serbatoio dal gruppo elettrogeno, La Pinter, su quello lo trovi. Tranquillo, tranquillo, lo trovi la Pinter. E magari per fare pagare 10 euro, €8 e 50 nel biglio 2. Allora ti dico che costa più di 10 euro. Che l'ho preso per il moto coltivatore, per il serbatoio del moto coltivatore si era rotto. L'ho piantato nuovo, non so come andiamo, mi sono guardato la stupata e non ci ho messo pizzo. Me le ordino da internet, ve ne so due, €8,50, spedizione gratuita pure. Certo, a voi la mandate. Se è così sì, ma bisogna vedere se il passo è quello, la misura è quella. Preciso identico. Allora sì, è uguale. Se la risparmiare. Quindi, come vedi, ce ne sono due, ce ne sono, è preciso identico. Con il dado per stringerlo è tutto, per non perdere. C'è la correzione e tutto. Si avvita, siccome il serbatoio c'ha il filetto, lo avviti e c'è la correzione per bloccare. Infatti, il dado ci ha attaccato per stringerlo, per non perdere. Dado, e come lo avviti? A vita dentro nel serbatoio e poi lo stringi un pochettino per stringere la guarnizione per non perdere. L'esame è per stringere la guarnizione, è un controdado in pratica. È un controdado sarebbe per tenere la guarnizione più che altro per non perdere. Esatto. Perché da dentro non si può entrare, se non hai le dita fini che passano nel buco del serbatoio. Questo prima ne sta con la guarnizione che ci ha attaccata al serbatoio, poi piano piano cerco di svitarlo. È chiaro, ma rotto si è perché? Infatti, faccio così. Ordineggio e me lo bongo, poi me ne lascio uno di riserva. Lo vai a Luca poi, che ne serve a Luca, dovevo mettere un computer. Infatti, questo così forte. Se ti serve a mettere un computer o un rubinetto. vabbè, vacchi, dai, già mi hai compreso. Ho capito, stiamo scherzando. A Luca devo far vedere un lavoro da fare, se riesci a farmelo. Diciamo che lo trovi un giorno e te lo faccio vedere. Non c'è problema, se devi saldare un microcomponente lo posso anche fare, non c'è problema. Se lo devi sostituire lo posso anche fare. Esatto. Un microcomponente da sostituire, è uno scanner, l'ho prestato e mi hanno ritornato che non funziona. L'ho fatto vedere e mi ha detto che c'è non mi ricordo se il nome di quell'attrezzo che si è bruciato. È un componente in pratica, diciamo così, a 6 o 7 o anche 10 piedini. Sì, vediamo, va. Tanto, tanto a me mi serve solo la scheda, perché sennò bisogna smontarlo. Adesso l'abbiamo già smontato, però l'hanno ripiazzato. Con le cuffie si sente, con le cuffie riesce ad ascoltare, senza cuffie nada di nada, un integrato. Quando vuoi, ci vediamo. Andiamo a parlare del vostro cos'è un portatile? Un portatile piccolino, un portatile che ho preso una fregatura tanti anni fa. Non c'è problema, allora, l'hai già comprato così, così difettoso? Era nuovo, siccome quando c'era la fiera Olbia dei telematuri, c'era ieri l'elettronica e c'era Giovanni che conoscevo, io c'avevo un Kevund, il 440 della Kevund, siccome mi stavano mitragliando questo Kevund ci dava fastidio, sono andato in fiera, ho parlato con Giovanni, ho detto Giovanni così così, portamelo che ti do un bel ricevitore, va bene, facciamo così, facciamo un cambio. Lui è vino, ma te lo spedisco da Continente, quando arrivo in negozio te lo mando. E cosa mi ha mandato? Una scatola di fiammiferi mi ha mandato. Te l'hai buttito proprio, grande, io ho dato valore di 1.800.000 lire allora, e lui mi ha dato valore se no di 100-200.000 lire. Allucinante, hai visto tu, va? Fax. Ti do abitudine a cosa, mentre allenato e subito fatto, è una buia cosa tutta, Poi l'ho prestato e non ho più funzionato, perché io sono sicuro che invece di alimentarlo a bassa tensione hanno aumentato alta tensione, mi sembra che l'entrata della corrente sia 9 volts, io sono sicuro che ne hanno dato 12. Alla Flava, Attizio, ascolta, se c'è spazio per saldare questo coso, che non c'ha altre cose vicino, si può anche fare, capito? Perché quando io vado a risaldare poi, ne risaldo anche altre cose, a meno che, dai, non comunque lo vediamo, se no mi dovresti procurare un pezzo di quel nastro, quello che mantiene la temperatura alta. Ma capito, e sarebbe quello lì è il coso. Io posso sapere che fanno impianti di riscaldamento. Non fa più freddo. Perché tu lo devi mettere per salvare gli altri componenti. Perché tu quando vai a riscaldare, non rischi di staccarne altri componenti lì. Ma comunque lo vediamo, Io da poco ho risaldato un connettore di caricatore di telefono, cioè il connettore USB della ricarica, perché le saldature non erano perfette, allora l'ho risaldato, ho rifatto le saldature, c'è una pasta adatta, no, per separare le saldature, poi ho rimesso di nuovo al connettore, gliel'ho saldato e si è perfetto, funziona benissimo. Bisogna vederlo, io ripeto, non l'ho visto dentro, come non l'ho mai aperto, l'ho dovuto riparare, ma se no c'è l'integrato, c'è un integrato bruciato, bisogna sostituire l'integrato. Va bene, dai, non c'è problema, allora, ci vediamo magari una sera, non problem. Comunque non sta scaldando, niente dietro, vuol dire che è a posto, vero? Sì, se non scalda, a tutti i dini, basta fare conversazioni brevi. No, ma non sta scaldando niente, prima scaldava un bel, ci mettevi la mano e ti bruciavo. Allora vuol dire che già va bene, anda così. Allora abbiamo un bicchiere d'acqua. E avanti tu. Sì, anda bene, anda. Già va bene così. Le persone che le stazionarie che c'hanno non gli influiscono nulla sull'apparato. Vuol dire che già andava bene. Vede che è zero, vuol dire che c'è un calante, c'è un scalda. Viene a scaldare il PL. Infatti, vuol dire che non gli scalda allora. Se non gli scalda vuol dire che ce l'ha quasi a zero, ce li ha. Anche 2 a 2 non gli fa nulla a me. Perché c'è 1,5 male le fa. È 1,5 Roma stesso. Adesso io faccio 1,2 4 watt. Ehi, 1,5. le due non sono nulla, non so. Ma aggiorni, c'ho anche un E5, secondo il tempo che sto facendo. Andiamo, certo. Beh, c'è un tenino autocostruito, 1-1 su tutti i canali. Andiamo, chi c'è da andare proprio? Ma è basso, diciamo così, hai visto? Da te posso arrivare, da Marina non so se ci arrivo, boh, non ho mai provato. No, insomma, allora era già un due a Marino, bussato in camion era travagliente, deve essere anche di pomeriggio anche. Allora sto facendo la plastica. Sicuramente, allora l'ho vista, anzi, mezzogiorno è qualcosa, l'ho trovato, che lui stava scendendo nel semaforo. Ma io non l'ho visto perché ero in ospedale a fare una visita. Sono arrivato a casa alle 2:30 e sono uscito da casa stamattina alle 8. Vabbè, anda, purtroppo meglio che travaglia, ma può entrare in più di là. Fa bene che lavora, fa bene quando c'è bisogno da fare, capito? Tu quando c'è i vecchi dicevano bisogna ben trovare quando va vento, e così è quello lì. Infatti bisogna fare così, bisogna fare ogni tanto, bisogna fare straordinario. Se ne faccia poco in nulla di straordinario, che non me ne lasciava né va. Perché non te lasciavano fare, dove vedi tu, non c'era quella necessità, invece dove Marino c'era la necessità di avere operai, invece di assumere, non assumono, fanno fare il doppio lavoro all'operaio. Infatti. Poi quando mi hanno detto di fare qualche ora in più, cosa non ne rifaccia via io. È chiaro, è a prendere per i fondi, dica, no, saranno. Dai lavoro. Infatti. Poi la sera mi ero venuta la Daura per il coso, per la staffa, per il trapano a colonna di quelli piccolini. Cosa stai facendo? La tavola di sotto mi ho fatto per poterlo bloccare quando lo devo usare. Ah, per avere la verifica verticale sulla colonna. Via. Ma il piccolino ce la fa a forare? Quello piccolino? Certo, no, altri che non avvazzi. Ce la facci. Anche se c'è un trapano piccolino. Ma si può mettere anche il trapano grande, si può mettere. Quindi, una buglia, però lo uso con questo trapano piccolino. Mi serve per fare roba piccola. Per fare la roba grossa gli avrei aggiuioso, mi devo fare il piedestallo, mi devo fare, mi pare che tratto questo che devo trattare in baro farugoso, fare un motore, ripongo una piastra sopra, dritta, e per aggiaggio. Si può fare, si può fare, ma che cosa? Il trapanino cosa c'è? Quello che fa 10.000 giri? Oh, presente ce l'hai il trapanino con quello che usi con punte piccoline. Con quel trapanino piccolino, gli attai a 12 volts. Sì, fa 10.000 giri quello piccolino. Punte grosse le puoi mettere, invece sono punte sottili. Infatti avevo messo per fare con le punte sottili. Ma quando devo trattare, viaggio in chili. E poi su alla cosa di su, come si chiama, al lido di su, quello vicino alla torre, quello lì ce l'aveva tutto completo, ce l'ha. Come tutto completo? Con il coso, con la morsa e tutto ce l'aveva completo, invece questo la morsa non ce l'ha. Capito. Io ce l'ho senza la morsa, la devi usare così a mano, quello piccolino. Anch'io ce l'ho senza morsa, però io ho preso la morsa di quello che c'ho giù, che ho compreso, che si può smontare, e stavo usando quella. Allora sì, allora già va bene. Luca, che è andata bene, ma non sto bevendo acqua, lo so, sto bevendo bionda. Sicuramente. purtroppo. Lui può. No, non sto bevendo niente, no. Acqua. No, questa mangiano due mandorle. Se le ho fatte, le ho sbucciate ieri in campagna, buone. Niente, affaccianuta, ma. Ciao, buone, tu. piacciono così. Avanti, signor Tom. Sì, a faccia l'ultra, mi ce ne mangiando. Lo sto mangiando ancora, lo sto mangiandolo. Fai zitto. Se ne sbuccia. Certo, e così è sto, così è la vita. E andava bene vedo. Dunque, io voglio, si è sentito, Marino si è sentito, Giulio si è sentito, Graziano viene con le patate, tutti a dormire. Graziano l'ho sentito in PMR, mi forse era con Luca a vedere. PMR, Graziano? Era, ma non lo so, va a Sarrado. Adesso vediamo. A me mi sembra che non ci sia. Ma no, non c'è il muto adesso, il PMR. C'è muto come una banana. Così è, Luca. Non c'è nessuno, no, aspetta, lo stavo chiamando e non mi risponde. Infatti. Vabbè. Adesso l'ha messo a dormire il PMR, gli ha involto la coperta e l'ha messo dentro il cassetto. Giulia, chietta, che andiamo bene. Dai, andiamo male. Domani ci abbiamo sole, andiamo bene. Eh sì, ma almeno questi giorni ci sta lasciando fare qualcosa. Sì, qualcosa si può fare, ma ripeto, la terra è bagnata non si può passare. No, parecchio bagnata. Sì, un rosso. Devo tagliare un po' d'erba, nulla da fare. Nulla, non si può trafficare. Sì, vabbè. Fai, così fai. Per un momento, lascia asciuttare un poco. Allora, domani ho un lavoro da fare. Devo cambiare il PTT all'MBP4. Non c'è lavoro da fare. E va bene allora. Solo che mi devo fare una foto perché ci sono i fili saldati sopra. Se no non ti posso, non posso andare a occhio, no? Quindi ci fai una foto oppure ti fa un disegno. E anche un disegno potrei fare, giusto, ma... vabbè, quel microfono lì era stato fatto anni fa, come di anni fa. La saldatura che sono fatte con il, come si chiama, con il adattatore a elettrodo. Sono fatte proprio all'americana, raga. Quanti anni è questa saldatura? Io sono 7-8 10 anni. Di più forse 20. Addirittura. E dunque, ma adesso si possono risaldare e riattaccare. No, ne devo risaldare il PTT perché si è rotto, si è spezzata la plastichetta, capito? Devo cambiare quello, il PTT e in più il tastino, quello, il block, quello in plastica. Ma dunque, un lavoro infino questo qua. È troppo lavoro perché lo devo risaldare da un microfono e poi lo risaldare dall'altro e poi saldarlo. Vabbè, saldarlo è un gioco, risaldarlo è che un giramento di scatole perché con la spiratagno che ho non funziona molto bene. Vabbè. E allora è un lavoro abbastanza serio. Bisogna fare un bel disegno, sono segnati tutti i colori e via. Sì, l'unica è. No, ma un consiglio per un aspirastagno di quelli buoni, cosa mi potresti dire? Dai, su, da Fusano, dopo purtroppo da Fusano l'ho comprato, di quelli elettrici, ho preso, lo lasci scaldare prima, e poi con l'aspirastagno un po' è nato e si aspira lo stagno. Dietro al forno del palle. Non ti ha parlato in duro, non ho capito niente. Parla tu. Aspetta, ma chi? Io l'ho comprato, l'aspirastagno, quello elettrico avevo comprato, 25 euro. Funziona benissimo. So che mi sei facendo rubizza a me. Funziona benissimo, ti sei facendo rubizza, hai capito? Il pezzo di sopra che tiene l'aspirastagno, tiene, dove c'è l'interruttore. Quel pezzetto lì si è rotto. E allora? E allora gli ho fatto un altro coso io per tenerlo, una molletta, però no, non farsi. Aspira bene? Scatta! Altro che si aspira bene, meglio di Gosu. Chi lo aspira a caldo aspira? A caldo e aspira, così, e tu lo punti e fa tutto lui. Tu appunti, schiacci il tasto per aspirare, poi con la levetta, tac, lo tiri su, perché ti scioglie lo stagno e se lo tira. Allora aspetta che prendo il telefono un attimo, aspetta. Ecco, preso Bacchi. Dovrei comprarlo tu quello lì tu. Tu da coso, da Guido di Goso, come ti si chiama? Da CBC. Da Tonino? Da Tonino l'ho comprato, 25 euro. Ah, un bel danno e va, mi l'ha giubiliato. Arrivo adesso, 25 euro lo trovo più presto. Ci vorrà di più. Ma c'è anche quel ragazzo di Alfa Danieta, dove c'è il fondo del pane. Dice che ha un mutuo di attrezzatura. Giulio non l'ha comprato lì, non l'ha comprato. Ma ci avrà quello senza essere elettrico. Quello ce l'ho anche io, ce l'ho quello lì. Ma non serve a nulla, non si vi. È meglio che do elettrico, perché ti scioglie lo stagno e poi schiacci. Hai compreso, Bacchi? Mettilo. Questo ti scioglie lo stagno, gli schiacci il tasto e te lo aspira. Capito, non l'ho mai visto. Abbiamo pagato 25 euro, abbiamo pagato, ma te lo fa pulito te lo fa il petto dove aspiri. Penso di sì, perché invece quello manuale c'è due volte che secondo come lo punti te lo lascia la metà. Infatti, secondo come lo aspiri te lo lascia, invece questo lo fa pulito buono. E non te lo brucia. Va bene. Va bene così, allora io devo pedalare verso giù, è arrivata l'ora. Bene, Tone, grazie delle quattro chiacchiere, anche a Luca. Salutissimi famiglia e ci sentiamo domani. Ciao Tone, ciao Luca, buona serata ancora. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani, ci sentiamo alle prossime, anche io se vuoi arrendi. Come ciao meglio. Ok, ciao Bacchi. Ciao Ottore, dai, ciao Bacchi, già so controllo Ottore. Sembra urlo perché mi serve, ciao. Guarda anche in internet, guarda, faccio di gusto di manco, buru. Aspira stagno elettrico. Aspira stagno elettrico. Avamolo un secco. Ma secondo come va domani me lo urlo. Ok, ci sentiamo lui. Ciao Ottore, ciao, buona sera, ciao.